Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 3 novembre, il sole in regione sorto alle 6.50 e tramonterà alle 16.51. La luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. La tempesta Vaia un anno fa ha schiantato solo nella nostra regione 700.000 metri cubi di alberi. Per ora ne sono stati recuperati dai boschi solo il 35-40%, mentre il prezzo è in picchiata, 15 euro al metro cubo, quando una volta se ne pagavano 50-60. Il punto della situazione nel servizio di apertura, cui seguirà il corsivo di Enos Costantini, che sottolinea come agricoltura e politica non parlino troppo spesso la stessa lingua. La rubrica delle normative ci aggiorna invece sull'emergenza della peste suina africana, che si sta avvicinando minacciosa ai nostri confini, mentre quella dell'olio continua il suo excursus storico della realtà regionale, avvicinandosi alla realtà dei giorni nostri. Il parco e le attività della Fondazione De Claricini Dornpacher sono al centro della rubrica dei giardini, per passare poi alla quinta puntata dedicata all'utilizzo del letame, il fertilizzante per antonomasia. In conclusione, come di consueto, l'andamento dei mercati, le previsioni del tempo per la prossima settimana e il proverbio friulano. Un anno fa il soffio di Vaia aveva messo a terra oltre 1 milione di alberi anche nella nostra regione, nella zona montana. È passato un anno. Tanto si è fatto e tanto rimane ancora da fare. Il punto sulla situazione di tutti gli alberi schiantati e recuperati lo facciamo oggi con Emilio Gottardo, presidente di Legno Servizi e presidente anche della rete di imprese per l'abete bianco del Friuli. Quanto legname siamo già riusciti a recuperare? Si valuta un 35-40% di quello che è stato schiantato, cioè 250.000 metri cubi su 700.000. Questa è una valutazione più o meno realistica che gira tra gli operatori. Quanto non si riuscirà mai a recuperare? Parliamo sempre di stime. Credo che su 700.000 metri cubi tra i 150 e 200.000 potrebbero non essere recuperabili. Mi riferisco a quella parte per la quale non è stato chiesto il relativo contributo di esbosco e che quindi verosimilmente vanno ritenuti o non raggiungibili o non di valore tale da essere sboscabili. Che fine ha fatto questo legname recuperato? Il legname recuperato è andato, ahimè, per molta parte all'estero, in particolare in Austria, ma anche in Italia. Molti operatori hanno cercato di comprare materiale locale, parlo di segherie, e alcune anche facendo scelte coraggiose di rifornirsi solo e soltanto con il materiale di Vaia, sia per quest'anno sia per gli anni prossimi. È una leggenda che sia finito fino in Cina? No, purtroppo non è una leggenda. È un dato di fatto, ci sono prima di Vaia e anche dopo ovviamente operatori commerciali che comprano legno italiano e lo mandano in Cina via treno, via nave e poi evidentemente questo ritorna nei mercati occidentali sotto forma di prodotti lavorati finiti. E a che prezzi? Il prezzo, come in tutte le situazioni di crisi economica, quando c'è sovrabbondanza di offerta, il prezzo cade e in questo caso è rotolato. Credo che si sia fatto molto male, perché da 60, 65, 70 euro al metro cubo che si poteva vendere in piedi un anno fa, oggi va già bene se si vende a 15. Quindi parliamo di un crollo del 75%. Bisogna riprogettare i nostri boschi? I nostri boschi bisognerà riprogettarli di necessità. Dobbiamo capire in anticipo come evolverà la situazione rispetto ai cambiamenti climatici e, detto in una parola, dobbiamo capire se, rimboschendo i nostri boschi, usare delle specie più termofile di quelle che attualmente ci sono. In particolare mi riferisco ad un ragionamento tra abete rosso sì, abete rosso no, e se abete rosso no, che cosa mettere al posto dell'abete rosso. Attorno a questo disastro si sono sviluppate anche delle iniziative solidali, non tutto il male viene per nuocere. Sì, il PFC Italia, che è l'organizzazione più grossa di certificazione della gestione sostenibile delle foreste, ha lanciato una proposta a livello nazionale di filiera solidale, chiedendo agli operatori di farsi carico del trattenimento del legname di vaia sul territorio nazionale e quindi per le produzioni e lavorazioni nazionali. In questo senso, in questa linea, Legno Servizi ha immaginato una propria iniziativa che abbiamo chiamato Taglieri Solidali, che utilizza tutto il legname di vaia di abete bianco per proporre dei piccoli regali natalizi o non natalizi, insomma dei piccoli oggetti che possano essere il segno concreto della capacità di tenere il nostro legname sul territorio e di fare solidarietà. Ogni tagliere che noi venderemo genererà un euro per il comune di Forni a Voltri, che è stato il più gravemente danneggiato da tutta la tempesta. Politica e agricoltura non sempre parlano la stessa lingua e alcune scelte si sono rivelate non in sintonia con la realtà del settore, come ci evidenzia in questo corsivo Enos Costantini. L'Unione Europea è nata facendo politica, dirò di più, è nata ed è cresciuta facendo politica agraria. L'Italia contava quanto la Francia e la Germania, ma non si sa se per scelta o per incuria lasciò campo libero alle altre due. Così prese piede una politica agraria incentivante la cerealicoltura e l'allevamento. I friulani se ne avvalsero sposando la monocoltura maidicola. Ricordiamo bene che il mais era pagato molto di più del suo prezzo sul mercato internazionale, come veniva fissato dalla solita borsa di Chicago. Ma una monocoltura è sempre, ben che vada, un vicolo cieco. Il latte fu talmente tanto che si parlò eufemisticamente di eccedenze latte. Il bianco elemento si trasformò da alimento in una costosissima palla al piede. La sua trasformazione in polvere era economicamente dolorosa, oltre che ecologicamente assurda. I frigoriferi rigurgitanti di burro avevano costi economici ed energetici esorbitanti. Si fece di tutto tentando di rifilare burro a un'Africa che non aveva certo la catena del freddo e vendendo burro all'Unione Sovietica, ma un politico francese di destra si oppose. A un certo punto si pensò di correre ai ripari, ma i rimedi furono peggiori del male e si dovette ricorrere alle famose o famigerate quote latte. Si provò per esempio coi premi di abbattimento, sostanzialmente soldi allevatori che facevano macellare vacche da latte. Gli allevatori eliminarono ovviamente i capi meno produttivi, aumentando così e di parecchio la pressione di selezione per la produzione del latte. Il tacon pièce de buse. E fu una scelta politica. Per raggiungere una produzione strutturale, cioè in equilibrio coi fabbisogni europei, si sarebbe potuto agire disincentivando l'uso dei mangimi extra-aziendali e soprattutto di quelli extraeuropei, favorendo i mangimifici aziendali e incentivando le foraggere. Infine, attirandomi gli strali di tanti tecnici, dirò che si doveva dare la patente di riproduttore a quei tori che non passavano le figlie un aumento della produzione, ma soltanto un aumento della percentuale proteica. Ciò avrebbe scontentato poche persone. Ma la politica, per definizione, scontenta sempre qualcuno. Si sarebbe concretizzato, però, in un'economia zootecnica meno parossisticamente tesa al massimo di produzione, in una vita più tranquilla e serena per l'allevatore, con un numero superiore di allevatori e sostanzialmente in una Europa migliore. Se l'Europa è soggetta a tante critiche, giustificate o meno, è a causa di scelte di politica agraria che sono andate nella direzione sbagliata. E ve lo dice un europeista. La PSA, ovvero la peste suina africana diffusa in molti paesi asiatici, è ormai molto vicina ai nostri confini. Assieme a Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, vediamo quali misure di prevenzione sono state adottate. Questo virus, innocuo per l'uomo ma devastante per gli allevamenti di maiali, è stato riscontrato nel settembre del 2018 in Belgio, a luglio del 2019 in Slovacchia e a agosto in Serbia. La questione preoccupa molto i servizi veterinari e naturalmente gli allevatori, in quanto non esiste un vaccino e la malattia è facilmente trasmissibile attraverso materiale contaminato ma anche attraverso popolazioni di cinghiali infette. I ministri dell'agricoltura e dell'ambiente dell'UE hanno convenuto che il controllo della PSA rappresenta una priorità assoluta e tra le raccomandazioni impartite agli Stati membri è emersa la necessità di un maggiore controllo delle popolazioni di cinghiali anche nelle aree indenni come l'Italia. E come regione di confine siamo dunque a rischio? Naturalmente sì, tant'è che le autorità sanitarie della regione Friuli Venezia Giulia e quelle della Repubblica di Slovenia, in occasione di un tavolo tecnico tenutosi a Nova Gorica lo scorso maggio, hanno elaborato un piano congiunto di prevenzione della PSA lungo l'area transfrontaliera che prevede, oltre a quanto già previsto dai piani venatori delle due regioni, anche l'abbattimento di almeno 250 femmine di cinghiale su ciascun lato della frontiera. Chi è autorizzato agli abbattimenti? Sono autorizzati i soci delle riserve di caccia espressamente individuata dai direttori delle stesse e che potranno operare solo all'interno della riserva di appartenenza. Poi naturalmente è autorizzato anche il personale del Corpo Forestale regionale che opererà in tutte le aree escluse dall'attività venatoria. L'attività potrà essere eseguita senza limite di orario anche nelle giornate di silenzio venatorio, cioè martedì e venerdì, sino al 31 marzo 2020. Altre misure di prevenzione? Con una recente circolare, la Direzione Generale della Sanità Animale del Ministero della Salute ha richiamato tutti gli allevatori di maiali a rispettare rigorosamente le misure di biosicurezza e le procedure di registrazione degli animali nell'anagrafe zootecnica, nonché il corretto utilizzo del modello 4 informatizzato per le movimentazioni da vita e verso i macelli. Questo aspetto risulta infatti fondamentale per mappare tutti gli allevamenti, compresi quelli con un singolo capo, a fine di gestire efficacemente e tempestivamente eventuali emergenze sanitarie che, speriamo di no, dovessero verificarsi. La scorsa puntata con Ennio Scarbolo, che ci cura la rubrica dell'olio e dell'olivo, avevamo già superato il grande freddo del 29 e accennato a cosa era successo con la Prima Guerra Mondiale. Siamo arrivati alla Seconda Guerra e cosa successe anche in questo caso per l'olivo. La Seconda Guerra Mondiale era alle porte e quando ci sono questi gravi eventi non ci si può dedicare con passione a questa nobile cultura. Nella nostra regione sono state altre colture vegetali a soppiantare l'olivo. Mi riferisco alle piante oleaginose, in primis la colza e il girasolo. Queste colture a ciclo vegetativo annuale, con produzione unitaria di olio molto superiore all'olivo, hanno fatto sparire quest'ultima, salvo rare testimonianze. Queste colture venivano coltivate nelle aziende agricole di pianura e si erano inserite molto bene nei programmi di rotazione assieme al frumento, mais, erba medica. Seminate nei campi e anche in piccoli appezzamenti raccolti a mano dopo la separazione dei semi, venivano consegnati all'ammasso, di solito ai consorzi agrari, in cambio di olio di semi. Come potete intuire, era molto più semplice coltivare queste colture, se non altro per il fatto che avevano un ciclo annuale e quindi non erano esposte periodicamente per più anni ai freddi invernali. Erano gli anni che si incominciava a consumare grassi di origine vegetale. Probabilmente la qualità di questi oli di oliva e di semi non avevano le caratteristiche commerciali di adesso, ma comunque erano grassi che si imponevano sul mercato soprattutto per la facilità con cui si producevano. Dopo le vicende belliche, la riforma agraria, il rinnovo culturale, la specializzazione della coltura della vite in collina, del mais, soia in pianura, di fatto le seppur rare piccole piantagioni di olivo sono sparite dal panorama regionale, salvo in alcune zone a San Rodrigo della Valle e a Muggia. Il censimento ISTA dell'agricoltura del 1970 censiva solo 11 ettari coltivati ad olivo situati in provincia di Trieste e la chiusura di tutti i frantoi. Confini con la ex Jugoslavia chiusi, nel senso che non era facile transitare con olive per andare a Capodistria a farle molire e riportare indietro l'olio ottenuto, così che pochi appassionati la portavano a molire fino a Bassano del Grappa. Diversi giorni per raccoglierle e ed altri 2 per la spremitura. Senz'altro la qualità dell'olio ottenuto non si poteva considerare extravergine. Giardini e cantine, la scoperta del contesto di Villa de Claricini Dornpacher a Botenico di Moimacco, antico borgo rurale nei pressi di Cividale del Friuli. Ci accompagna Franca Merluzzi con la sua rubrica dei giardini. Approfittiamo delle prossime aperture al pubblico per visitare la villa e il suo giardino storico, con belle aiuole di bosso, statue e fontane. Il camminamento è ornato da vasi di fiori e di limoni centenari che d'inverno vengono portati nella serra accanto. Con piacere si nota che tutte le sculture in pietra sono state da poco restaurate. Oltre la balaustra si estende il parco con un grande prato centrale e ai lati piante secolari tra cui leci, abeti, faggi e cedri. Tra tutti spicca il faggio rosso, vecchio di 250 anni. Riconosciuto albero monumentale della regione. Interessanti le visite guidate alla villa, che conserva arredi e decorazioni, accompagnati da Valeria Dolce, studentessa universitaria. Una presenza giovane in un contesto antico è sempre una gradita sorpresa. Si apprende che è prevista la riapertura dell'ingresso sul lato sud, il ripristino del viale dei cipressi e altri interventi. Nel 2020 partiranno anche laboratori per le scuole. E chi si occupa del mantenimento di questo complesso? Questo è un aspetto interessante. Il contesto è gestito per volontà testamentaria dell'ultima contessa, scomparsa senza eredi, da una fondazione. Il suo consiglio di amministrazione, presieduto da Uldino Cernoia, è composto da rappresentanti del Comune di Cividale, dell'Università di Udine, della Fondazione Friuli e dell'Accademia delle Scienze, sempre di Udine. Positivi i primi risultati del progetto di rilancio del contesto. 17 aperture al pubblico, 22 eventi tra concerti, presentazioni e mostre, ben 25 feste di matrimonio. La fondazione provvede alle spese soprattutto grazie all'attività agricola e vitivinicola su terreni propri e sotto la direzione dell'enologo Paolo Dolce. 150 ettari di coltivazioni biologiche producono cereali e legumi. Nelle cantine ristrutturate maturano i vini ottenuti su una superficie di 12 ettari. In programma visite alle cantine, alla villa e ai giardini sabato 9 e domenica 10 novembre in occasione di cantine aperte a San Martino. Con Sandro Menegon per la rubrica che dedichiamo quest'anno all'Etame, la scorsa puntata era focalizzata sul fondovalle e sull'utilizzo dell'Etame negli orti e nei campi. Andiamo avanti. Durante l'inverno, specialmente con il terreno innevato, si ricorreva anche al trasporto dell'etame nei campi con la slitta. La pratica non era certamente molto razionale, poiché le basse temperature bloccavano la fermentazione, le acque di disgelo e le abbondanti piogge primaverili dilavavano la massa e ruscellando accumulavano i nutrienti nelle zone più basse. Ma la pratica è suggerita dalla necessità di economizzare gli sforzi. Inoltre, permetteva di liberare in parte la concimaia, di avere già in campo in primavera l'etame per procedere celermente alle lavorazioni del terreno e alle semine prima dell'inizio della fienagione. Si letamavano anche i prati? Il letame generalmente trasportato faticosamente col J-COS e sparso sul prato necessitava ancora di attenzioni. I pochi proprietari ed animali da lavoro negli appezzamenti in piano passavano sul prato con un rudimentale attrezzo la frastie. L'operazione consentiva di fruzzare, sminuzzare il concime e spianare i cumuli delle talpe farcadissis. I più, o sempre ad onor del vero le più, eseguivano il lavoro con il rastrello e sempre con lo stesso strumento in primavera rastrellavano ramondavi i prati per asportare il materiale trasportato dal vento e le foglie ancora decomposte usate come lettiera. Possiamo passare alla pianura dove i residui vegetali dei seminativi e le piante palustri della bassa erano un buono strame. In pianura l'espansione dei seminativi e una loro razionale conduzione portò ad arare, arare e stecorare. Come già accennato nella rubrica zootecnica, venivano allevati bovini con una spiccata attitudine dinamica, ritenuti inoltre un opificio, la cui materia prima è il foraggio, che essi convertono in concime. In relazione alle scarse produzioni di carne e di latte, prima della diffusione della pezzata rossa, erano ritenuti un male necessario. La diffusione dell'erba medica, che fa srindi il terreno e fa scresi la greppie, e le razionali rotazioni permisero l'aumento numerico e la produttività dei capi allevati, quindi più animali, più letame e maggior produzione dei seminativi. Con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli. Andamento con scambi fiacchi e prezzi costanti nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 15,90 e 16,10 euro il quintale IVA esclusa, la soia fra 32,80 e 33,30, l'orzo con peso specifico 60-63 tra 15,30 e 15,80, il frumento tra 17,20 e 17,50. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 70 centesimi il quintale e la soia aumentata di 50 centesimi. Scambi pressoché stazionari all'ortofrutticolo di Udine con prezzi equilibrati. L'insalata gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate all'ingrosso tra 90 centesimi e 1 euro il chilo, IVA esclusa. Le zucchine e i peperoni gialli e rossi tra 1,30. Le melanzane tonde tra 1,30 e 1,40. La scalola riccia tra 2,30 e 2,50. I pomodori italiani in grappolo tra 1,70 e 1,80. I finocchi tra 1,30 e 1,50, il radicchio rosso tondo tra 1 e 1,50, quello di Treviso precoce tra 1,30 e 1,70, i cavoli tra 0,60 e 0,90, i kiwi tra 2 e 2,30, i meloni tra 1,80 e 2 euro, le mele fusi tra 1,50 e 1,80, le pere abate 1,80 e 2,40, l'uva tra 1,10 e 1,80, le clementine italiane tra 1,80 e 2,30 e le castagne tra 3,50 e 4,50. Infine, domanda sempre sostenuta nel comparto caseario, con il prezzo di montaggio fresco compreso tra 5,95 e 6,25 euro al chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 7,10 e 7,40. Con marchio di qualità tra 8,10 e 8,40, lo stagionato 12-15 mesi tra 7,80 e 8,20, mentre il latte naturale di vacca Franco Stalla, compresa refrigerazione, è quotato dalla Camera di Commercio di Udine a 38,50 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Con il previsore dell'ARPA Osmer Arturo Puccillo sentiamo cosa ci riserverà il meteo nella settimana entrante. Dopo alcuni giorni con correnti fresche orientali e cielo sgombro da nubi, da ieri le correnti mediterranee umide hanno preso nuovamente piede sulla regione, anticipando il sistema frontale che ci interessa oggi. Nei prossimi giorni la porta dell'Atlantico rimarrà aperta, con ulteriore incursione di fronti verso le nostre zone. Domani avremo di prima mattina ancora piogge residue. Poi si instaurerà una certa variabilità, che già in serata verrà rimpiazzata da cielo coperto. Martedì, infatti, una nuova sciroccata accompagnerà un fronte, con piogge intense, specialmente sui monti e ad est, con qualche temporale. Le temperature rimarranno stazionarie, su valori relativamente miti. Le piogge si attenueranno nella notte tra martedì e mercoledì, quando in giornata ci sarà qualche schiarita. Le temperature scenderanno leggermente. Giovedì sarà una giornata variabile, salvo la possibilità di qualche precipitazione di prima mattina per un debole fronte. Venerdì, un ennesimo fronte atlantico potrebbe formare una depressione mediterranea, in seguito alla quale la nostra regione potrebbe avere piogge moderate, ed ora nei bassi strati, con ulteriore moderato calo delle temperature. Nel prossimo fine settimana dovrebbero prevalere correnti più secche da nord in quota, da nord-est al suolo, quindi bora moderata e assenza generale di piogge. Le temperature scenderanno ancora un po'. Come sempre, vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti quotidiani dell'Osmer ARPA, diffusi anche dalla RAI regionale nei notiziari radio, in TV, Buongiorno Regione, e tramite internet, telefonia mobile e social media. Alla prossima! Termina qui la puntata odierna. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana. Il dì di San Just, se il tempo è rot si juste, ovvero se il giorno di San Giusto, il 2 novembre, il tempo è rotto, cioè insomma cattivo tempo, poi migliora, si aggiusta. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato?